Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Chiuso la prima parte del volume numero 2 di Eclettica con il quarto gruppo non ha un attimo libero di tempo, sono sicuro, di Dan Bejar, Hello Blue Roses. E abbiamo aperto invece la seconda parte con Beach House, quindi è stato Canada prima, sono stati Stati Uniti con i Beach House che provengono da Baltimora ed ora invece è Islanda. Quando si pensa a questa terra si pensano a determinate atmosfere musicali, sicuramente non a quelle dei Singapore Sling che prendono il nome da un cocktail. Io li ho scoperti, nonostante loro si siano formati ormai da parecchi anni, nel 2000, grazie ad una compilation che riassume i loro primi tre dischi, gli unici che hanno inciso fino adesso. Da questa compilation vado ad estrarre il brano che dà il titolo anche al loro secondo album. Si tratta di Life is Killing My Rock and Roll. I got this blue. Comunque, fra poco sarò morto del tutto, finalmente. Il mese venturo, forse. E allora sarebbe il mese di aprile o di maggio. Perché l'anno è poco inoltrato, me lo dicono mille piccoli indizi. Può darsi che io mi sbagli e giunga anche più in là di San Giovanni, o anche del 14 luglio, festa della libertà. Ma cosa dico mai? Sono capace di arrivare sino alla trasfigurazione, mi conosco bene, o all'assunzione. Ma non credo di ingannarmi, dicendo che queste solennità si celebreranno senza di me quest'anno. Questo era l'incipit di Malone muore, di Samuel Beckett. assieme a Giulio Capperdoni Eclettica ancora per qualche minuto, per arrivare fino alle 20, quando poi arriverà invece Marco Garavelli. Tutti i giorni questo succede fra le 19 e le 20, appunto sulle frequenze di Rock FM. Ci siamo appena ascoltati i giapponesi Tennis Coats, brano dal titolo impronunciabile, non ci tentò nemmeno, e prima ancora gli innamorati dei Pixies, Blood on the Wall, con un estratto dal loro ultimo album. E ora invece la formazione della seconda volta che succede quest'oggi, formazione che proviene da Vancouver, è questo che succede la seconda volta, la provenienza geografica. Loro si chiamano Lady Hawk e usciranno il 4 di marzo per Jack Jaguar con un nuovo album dal titolo Shots. Da questo nuovo album vado ad estrarre I Don't Always Know What You Are Saying. Yeah. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 12, volume numero 2. Indice, Ursula Poyntz, Stephen Malkmus and the Jicks, To Kill a Petty Bourgeoisie, The Pterodactyls assieme a Kimia Dawson, Hello Blue Roses, Beach House, Singapore Sling, Blood on the Wall, Tennis Coats, Lady Hawk, Die, Die, Die. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.